tutto piano. Nella vostra situazione particolare, io vedo che voi, oltre ad avere questi tre ruoli che abbiamo visto, classici, tipici nei confronti di chiunque all'interno della formazione PNL umanistica, acquisite altri ruoli, per esempio quello di datore di lavoro. E quantomeno di formare un lavoro, che noi non siamo datori. Sì, però, vabbè, però nei confronti di Valentina siete anche datori di lavoro, voglio dire, nei confronti di altri non direttamente, ma si creano delle aspettative in questo senso, come dire. Ecco, più che datori di lavoro, dei formatori, cioè quella cosa è molto importante, questo, quello che abbiamo cercato di ho scritto 20 pagine su questo, che noi non siamo datori di lavoro, noi siamo... Non siamo né genitori né datori di lavoro, siamo persone che possiamo allenare in un anno a essere persone che poi si procurano un lavoro. Ecco, vabbè. Quindi i soldi che prendete da Aleph, non sono prestiti, nel senso che voi dovete, perché noi siamo sicuri, poi prestiti a nostro rischio, nel senso che se voi non riuscite poi a farle impegnandovi, non riuscite a fare le cose, va bene, Aleph ce li rimette, perché voi avete dimostrato di essere... persone meritevoli, quindi... Però capisci che questo comunque è già un ruolo in più rispetto agli altri. È come segreteria invece... Perché, la segreteria, va bene. Perché comunque avete un ruolo in ogni caso di benefattori in quel senso, no? Tu sei un benefattore, tu anticipi delle cose e naturalmente nel momento in cui le anticipi un pochino c'hai delle aspettative che queste persone... facciano qualche cosa, diano da fare, e loro si mettono nella condizione di gratitudine nei vostri confronti perché li state aiutando. Questo è il problema, sì. Quindi anche se non siete delle figure proprio genitoriali, per non dire che poi in ogni caso comunque c'è addirittura un rapporto di parentela, come nel caso con Eugenio, Valentina, voglio dire. Quindi, capisci? Quindi proiettarci il modello del genitore, del benefattore, e se non proprio del datore di lavoro, di comunque quello... che ti sostiene in quella direzione, ti dà delle cose, sono tutti ruoli in più che si aggiungono a quello. Ancora più difficile. E aggiungi ancora una cosa, che siete anche amici. Tu capisci che il fattore di, non è un caso che nei terapeuti tradizionali non vogliono essere amici dei loro clienti, che sanno quanto è già difficile coniugare queste cose. Allora voi già ne dovete coniugare tre, poi ci mettete l'amicizia, poi ci mettete benefattore, datore di lavoro, figura genitoriale o parentale comunque, che si crea. I ruoli diventano non uno o due, diventano sei, sette. Perfettamente vero. Ognuno di questi ruoli crea inevitabilmente dei legami reciproci, delle aspettative reciproche, delle reciproche dipendenze. E quindi ogni volta che uno su uno solo di questi ruoli viene a mancare, è un piccolo tradimento che si avverte. Questo piccolo tradimento, da una parte o dall'altra, va a influenzare tutti gli altri rapporti che ci stanno. Come dire, ogni rapporto che c'è, umano, qualunque che sia, un rapporto di amicizia, un rapporto di coppia, contiene in sé, per usare una metafora, una piccola pentola a pressione. Questa pentola a pressione è utile nel rapporto, perché è quella che fa cucinare, che nutre, no? Però nello stesso tempo l'abilità nel gestire un rapporto è quella che, quando tu senti che la pressione sta salendo troppo, abbassi la fiamma, di modo che se no salta la valvola e scoppia. Ora, questo c'è in qualunque rapporto. Nel rapporto di amicizia c'è una piccola pentola a pressione, e l'amicizia consiste nel fare attento se la pressione dell'altro sta salendo troppo, e tu devi abbassare la fiamma prima che salti la valvola, se no ci si ustiona tutti e due, voglio dire, no? E se il rapporto è di amicizia e poi è anche un rapporto di coppia, e poi è anche un rapporto di lavoro, e poi è un rapporto di terapia, e poi è un rapporto, capisci, di formazione e di altre cose, le valvole incominciano a essere non una ma 6-7. La pressione è fortissima, e se salta una sola di queste valvole saltano tutte le altre, perché sono interconnesse, interdipendenti, è sempre nella stessa pressione che c'è. Quindi richiede un impegno, un'attenzione perché tutto questo vada. Devi abbassare non una fiammella, ma ne devi, ce n'hai 6-7 da gestire di fiammelle da abbassare, perché non salga troppo la pressione, perché sei consapevole che se la pressione sale troppo da una parte, basta che scoppia una, scoppiano tutte le altre. Capisci? Quindi è come stare seduti comodi in poltrona, ma per usare una metafora più drammatica di questa, sentire un tic tac sotto che ti viene sempre più il sospetto che non sia l'orologio della camera, ma una bomba, qualcosa che devi andare a controllare e a disinnescare il più presto possibile ogni volta, se non vuoi salta tutto per aria, capisci? Non ci stai tanto rilassato in quella posizione. È vero. Io non la sento una posizione molto comoda o facile da gestire, capisci? Non è per niente comoda. È così. Guarda. Non è una passeggiata in montagna come facevamo ieri, dove al massimo ci può essere un passaggio, per usare ancora un'altra metafora, di terzo o quarto grado. C'è una parete di quinto grado con passaggi di sesto e anche in artificiale, di settimo, dove non sai cosa inventarti per andare fuori, capisci? Un vecchio copione non può succedere. Noi ce lo siamo detto tante volte, adesso come mai finiamo qua? Ma perché noi finiamo qua, adesso detto in tre parole, adesso poi arrivo. Perché per creare un minimo di squash tra noi due abbiamo dovuto trovare, allora, per me per portare avanti un'attività come facevamo prima, il mondo quando lo faceva PNL Meta, è tutto diviso, io andavo là, facevo i treni. Avessi voluto fare un'attività io, dovevo farla in una città, dove è molto più facile, no? Cioè dove c'hai gli studenti, ti arrivano, poi se ne vanno via, tutto facile. Carolina non è Speranza, ma non è molto lontana, per cui abbiamo creato uno squash in cui comunque viviamo non in una città, viviamo a Camogli, dove però è tutto diverso, tutto costosissimo, ogni metro quadrato di terra costa, quindi tutto difficile. Per creare, poi noi ci piace stare comunque anche a me, ci piace stare in campagna, stare, quindi i corsi non li facciamo in città, abbiamo fatto tutta una serie di operazioni che nessun formatore che abbia il minimo di cervello fa, diciamo di quelli che vogliono vivere una vita tranquilla, li fa dove può fare bene il mestiere, che sono, insomma, apre un centro a Firenze, a Bologna, ma nessuno sa come abbiamo fatto noi. Abbiamo fatto per creare questa sinergia. Questa sinergia, no, tra di noi ci porta ad avere una via difficile, cioè non è una via, non è una passeggiata, un sentiero, ma è proprio un fil di cresta dove di qui cadi, di qua ti cadi e l'unico punto è così. E se tira vento devi accucciarti proprio bene. Ma perché ti piacciono le scalate difficili? Non c'è niente da fare. A me piace, non ci trovo niente di male nel fare una scala, basta saperlo. E non sapere bene che quello che stiamo facendo. Infatti tutti hanno rischiato di saltare, tutti, Rocco prima, poi Valentina, poi... Ma non stupisce, si capisce, perché è il contesto stesso che crea la struttura che genera questo. Devo dire che però, per il momento, no, come dire... La scalata è difficile, però per il momento va bene, finché va. E quindi finché va, ma non solo, ma la prospettiva è che sembra che stia andando anche meglio, nel senso, io sai, vedo questo, l'uscita da questo problema è che i ragazzi diventino sempre più loro leader di loro gruppi e così via, per cui fanno riferimento a noi come base sicura, ma anche Nicola mi telefona sempre, mi chiama, cioè. Però Nicola è diventato un trainer, che ormai è già a questi punti. Allora, noi, il nostro obiettivo è creare un gruppo di trainer così, e quindi quest'anno ci facciamo questo periodo, che Dio ci mandi buono. Ma una volta, perché Valentina quando fa un gruppo con Eugenio escono e sono felici, sì, entusiasti, Rocco quando fa un gruppo è felice, sì. Allora, la Lara è ancora quella che, insomma, che viene da Senigallia, fa dei viaggi infernali, cioè cosa, ma tutti sono pronti, insomma, dediti a questa direzione. Quindi è un periodo temporaneo, perché l'idea di fondo è creare una serie di collaborazioni in cui noi siamo quelli più anziani, ma gli altri poi si gestiscono le loro cose, insomma, diventano autonomi, insomma, gli altri. Io quello che patisco tanto in questa situazione, lo vivo come isolamento, è la mancanza di pari. Signore, lo capisco tanto. Questo lo capisco tanto, questo è.